Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi parliamo di ginocchio per qualsiasi dolorino, dubbio, domanda. Se siete giovani, se non siete più proprio giovani, iniziate subito a chiamare 800 24 00 24 perché in studio con me c'è il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Professore, il ginocchio è una miniera. Per voi ortopedici. Cosa intendi? Perché sembra bello forte, ci sono anche delle ginocchia abbastanza importanti, eppure poi sotto è fragilino. Il ginocchio è l'articolazione più instabile che esista nel nostro corpo, nel senso che noi abbiamo, lo dico sempre, una superficie convessa che è la parte del femore in basso che si articola con la parte alta della tibia. La superficie del femore è convessa e la superficie della tibia è piatta, quindi concettualmente non possono stare insieme. Madre natura ci ha messo un sacco di cose, legamenti, menischi, per stabilizzarlo, ma più complichiamo e più rischi ci sono che qualcosa non funzioni. 800 24 00 24, se volete parlare di questa articolazione così fragile, non fidatevi delle apparenze. C'è da dire però, professore, che se nella malaugurata ipotesi fosse necessario un intervento, Oggi è tutto cambiato rispetto a molti anni fa, nel senso che l'avvento dell'artroscopia, cioè di questo piccolo, la possibilità con un piccolo intervento con due o tre buchini, si possono risolvere molti problemi del ginocchio, non tutti evidentemente, e poi i criteri di recupero, tutto ha reso più facile il trattamento. E l'altro elemento fondamentale, la possibilità diagnostica data dai nuovi strumenti come la risonanza magnetica, i vari accertamenti ci consentono di poter inquadrare. E poi le tecniche stanno facendo dei passi avanti incredibili. Una volta per ricostruire un legamento dovevi aprire il ginocchio, dovevi mettere il gesso, adesso in due giorni vanno a casa, veramente? In pochi giorni camminano, insomma, quindi c'è la riabilitazione. Certo, è sempre una situazione non banale, come non banale è il recupero. Quello che dicevo prima, è fondamentale riuscire poi a recuperare anche il tono muscolare, che ecco, forse veramente quando si parlava di fragilità questo è un elemento importante. Se noi per qualche motivo abbiamo un problema al ginocchio, la nostra muscolatura scompare in un attimo, in pochissimi giorni, e poi per ripristinarla si fa una fatica. Non c'è assolutamente proporzione tra la difficoltà di recuperare e in quanto tempo scompaia questa muscolatura. Rassicuro un ascoltatore che mi scrive: sì, per il chirurgo che ti opera, sì, è una miniera, bella gaffa, l'abbiamo detto apposta. È per quello che io ho fatto un attimo di... ero un attimo perplesso quando l'hai detto, però poi sono anche due, ecco, quindi insomma... Quindi, no, si rassicuri, non è una gaffa, è intenzionale. Tranquillo, il professor D'Anchise rimane con noi fino alle ore 12. 800 24 00 24. La forma delle ginocchia, professore, ci dice qualcosa della loro salute o della loro potenziale fragilità? Più che la forma, l'asse, cioè c'è un asse che definiamo fisiologico, che è, per dire, quasi rettilineo, non è proprio rettilineo, ma diciamo quasi rettilineo. Ci sono delle alterazioni dell'asse, varismo o valgismo si chiamano, un po' tipo la gamba da cavallerizzo, sì, oppure la gamba ad X, che sono, sì, l'uno l'inverso dell'altro, che ovviamente, distribuendo malamente il carico, non c'è una distribuzione uniforme, predispone ad un'usura nel tempo dell'articolazione. Professore, che vuol dire, scusi, usura dell'articolazione, vuol dire artrosi. Ci sono delle ginocchia che sono diventate famose e noi partiamo proprio da questo tipo di ginocchia per individuare dei dolori e delle potenziali patologie, dei fattori di rischio che possono, sì, in qualche modo far, sì, degenerare l'articolazione. Beh, ci sono situazioni particolari che ci possono creare una situazione di allerta, come per esempio stare molto in ginocchio può creare delle difficoltà, perché si crea una situazione di infiammazione di quella che è la borsa che sta davanti alla rotula, e che si può infiammare, riempire di liquido, e quindi per esempio può creare delle difficoltà. Il famoso ginocchio della lavandaia. La bella lavanderina che lavi i fazzoletti per i poveretti, linea con noi abbiamo Simone dalla provincia di Rimini. Buongiorno Simone, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Chiamavo perché ho 29 anni, lavoro spesso in ginocchio e da un po' di tempo a questa parte avverto come una puntura sul fronte anteriore lato sinistro, e sia quando carico il peso ma anche quando sono scarico, quando vado ad inginocchiarmi o ad alzarmi in piedi. Volevo sapere se poteva essere un problema di menisco o qualcosa del genere. È il ginocchio della lavandaia in fondo. No, un mezzo ginocchio, diciamo, della lavandaia. Che il potrebbe essere, quindi ricordiamo che nel ginocchio ne abbiamo due menischi, uno nella parte interna e uno nella parte esterna. I sintomi a cui fa riferimento lei potrebbero far pensare ad un menisco esterno. Teniamo presente che il menisco si può rompere anche senza un trauma, ed in particolare il menisco esterno può avere una sua caratteristica, cioè può nascere anomalo. Invece di essere una specie di C, come sono tutti i menischi, diventa una specie di disco, infatti si chiama menisco discoide, che chiaramente, avendo una forma anomala, si può rompere più facilmente anche senza un trauma. Quindi se continua può valere la pena di fare una risonanza magnetica e poi un controllo. E dopo il ginocchio della lavandaia ci occupiamo del ginocchio del saltatore. Dai! Professor D'Anchise, del saltatore. Allora, inseriamo un nuovo elemento. Noi abbiamo parlato di menischi, abbiamo parlato di legamenti, quindi abbiamo parlato di stabilità del ginocchio, ma c'è la muscolatura, e dove c'è muscolo c'è tendine, cioè il muscolo lavora attaccato all'osso attraverso il tendine. Il saltatore, saltando spesso, sollecita in maniera molto frequentemente il tendine rotuleo, che è il tendine che trasmette la forza del quadricipite, che è quel muscolo che abbiamo qui davanti. Sì. Qualche volta l'eccessiva sollecitazione può creare un'infiammazione di questo tendine, e come tutte le tendinopatie è un po' noiosa da risolvere. Non come c'è... si presenta? Con un dolore specialmente camminando, localizzato proprio al di sotto della rotula, nella parte centrale, e ripeto, non è così semplice come tutte le tendinopatie da risolvere, può essere una cosa un po' noiosa. 800 24 00 24 se il vostro ginocchio si lamenta lì, ma abbiamo anche il ginocchio, il famoso ginocchio del maratoneta. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. Professor D'Anchise. Bel film. Bello. Sì, io l'ho visto diverse volte, mi piace sempre. Che cos'ha il ginocchio del maratoneta che ci può interessare? Il ginocchio del maratoneta può non avere nulla, ma questo è un argomento sempre molto, molto importante. Noi pensiamo che fare attività sportiva per definizione faccia bene, e questo è vero, ma se noi eccediamo, ecco che possono sorgere dei problemi. Molto frequentemente il maratoneta ha una sofferenza della cartilagine dovuta, perché il problema è che non è solo il cammino, è anche il salto, cioè tutte le volte che noi facciamo una corsa c'è un momento in cui il piede si stacca da terra e poi ricade, quindi tutto questo è un elemento di sofferenza, cioè di sollecitazione dell'articolazione, e a lungo andare ci può essere un'usura della cartilagine. E proprio ieri vedevo un paziente il quale era disperato perché ha sempre corso nella sua vita e adesso non ce la fa più, e perché poi per loro diventa veramente un bisogno, certo, assoluto, ed era disperato. Quindi bisogna fare un po' di quindi riposo. La conclusione è che gli sportivi per fortuna ci sono, perché anche per noi è piacevole vedere le varie gare e tutto quello, però l'elemento importante è che abitualmente dobbiamo fare sport, ma non dobbiamo eccedere. Allora, per fare sport e nello specifico per correre con la testa e con i piedi giusti, abbiamo in linea con noi Marco Marchei. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Direttore della rivista Runner World. Marco, qualche indicazione per i nostri ascoltatori che amano correre per evitare che si debbano andare dall'ortopedico e sentirsi dire lei per un po' stia fermo. Che cosa si può fare? Beh, intanto mi inchino alle conoscenze del professore. Io mi inchino a maratonetta. Tutti un inchino dietro l'altro. Insomma, il medico è sempre importantissimo. Ovvio che il nostro compito poi è quello di cercare di non mandare la gente dal medico. Quindi certo. Rifacendoci un po' le nostre esperienze, alle nostre conoscenze, instradare la gente sui giusti binari. È proprio il caso di dire instradare. Assolutamente, volevo fare un inciso, poi ho detto cerco di non vado spedito. Io direi che intanto non c'è dubbio che se un bravo tennista vuole divertirsi su un campo da tennis deve avere una buona racchetta, il corridore deve avere assolutamente delle buone scarpe da corsa, quindi credo che il consiglio fondamentale sia poi questo, un buon paio di scarpe da corsa possono ovviare a tantissimi problemi, non delle scarpe simil running, simil corsa, scarpe sportive, quelle che generalmente vengono poi utilizzate sotto i jeans o per fare una minima attività, no, delle buone scarpe da corsa che in qualche maniera mettono in condizione spesso e curiosamente, al contrario di quanto pensino molti, di poter correre anche su superfici dure come l'asfalto senza troppi problemi. Per intenderci, anche i terreni da scegliere sono importanti, meglio un terreno duro, quindi che so, un asfalto uniforme piuttosto che uno sterrato, che generalmente viene ritenuta la superficie perfetta, che uno sterrato irregolare che invece può creare qualche problema di instabilità, direi caviglia, ginocchio, anca, qui non solo il ginocchio. Un'altra cosa di cui i corridori, i runners, come amiamo chiamarli noi, devono tener conto della gradualità, molti passano in troppo poco tempo dalla sedentarietà quasi assoluta a un'attività eccessiva, quindi è sbagliato, questo l'aveva già anticipato anche il professore, è sbagliato esagerare anche con le percorrenze non disponendo di una muscolatura minimamente solida, cioè di un tono muscolare in grado di garantire un'opportuna solidità agli arti inferiori, gambe e piedi. L'esempio che mi piace sempre fare è quello di un'auto. Se uno ha un'auto seppur in buone condizioni, che però è ferma da molto tempo, prima di rimetterla in strada è bene che la controlli bene e poi che faccia delle percorrenze adeguate, cioè andando da Milano a Lodi o da Roma a Castel Gandolfo e non da Milano a San Benedetto del Tronto e da Roma a Reggio Calabria e ritorno, ecco, appunto, perché veramente altrimenti si rischia lo stop e poi lo stop definitivo, come diceva il professore, cioè quello che ha corso tutta una vita e poi all'improvviso gli viene a mancare tutto perché l'ammortizzatore e la cartilagine ha ceduto, insomma. Ecco, quindi un ultimo consiglio, e questo che è un po' il più difficile a mio parere da applicare, è quello di curare la tecnica di corsa, perché una cattiva tecnica di corsa o comunque degli appoggi non corretti possono creare problemi, direi, il professore mi correggerà magari, alle cartilagini, in particolare alle cartilagini. Insomma. Professore, concorda? Consideravo che sono delle osservazioni assolutamente condivisibili. Insomma, vi piacete? Sì, ci piacciamo, ci inchiniamo. Bene. E ci piacciamo. No, voglio dire che è molto molto importante. L'ultima osservazione mi ha colpito, perché tutti noi, e me qualche volta anch'io, andiamo a correre, ma corriamo e basta, senza sapere come correre. Ecco, ma chi insegna a correre? Loro devono insegnare. Chi parla Runner in questo? World, non io, certo. Loro. I consigli di Runner World. Marco. Dalle pagine di una rivista, però io credo che siccome molta gente che se ne dica ancora frequenta le palestre, nelle palestre ci sono dei trainer che sono in grado intanto di gestire un po' la muscolatura di quelli che frequentano la palestra, quindi comunque di poterli minimamente strutturare, quindi di potergli dare un adeguato tono muscolare, ma credo che possano, visto che tutte le palestre dispongono di un tapis roulant, per quanto il tapis roulant non sia la stessa cosa rispetto ad una strada asfaltata, però credo che possano veramente provare ad insegnare a correre in maniera un pochino più adeguata. passata. È passata, credo, la moda di quelli che insomma, si corre in un qualche modo. Il Forrest Gump che incomincia a correre e poi arriva fino in Indiana dall'isolato, no? Meglio mettere la macchina in condizioni di poter correre al meglio. Senti Marco, prima di salutarci, ci dici qualche segnale che può avvertire chi corre magari con le scarpe non adeguate o corre con uno stile di corsa che può in qualche modo danneggiare o pesare troppo eccessivamente su muscoli e articolazioni? Sono dolori, sono crampi, dove si avverte il dolore e che tipo di dolore? Ma generalmente sono i classici dolorini, difficilmente se i problemi sono alle cartilagini, difficilmente c'è il, così come può capitare al velocista, uno stiramento, uno strappo immediato. Sono dolorini che non vanno sottovalutati. Va fatta della minima fisioterapia, anche come dire casalinga, no? Utilizzare il ghiaccio finché possibile, provare. Se il dolore persiste nell'allenamento, nella corsa, succede, non chiamiamolo neanche allenamento, nella corsa successiva, meglio stare fermi, meglio andare dal medico, perché tutti quanti hanno una grande ritrosia rivolgersi al medico, invece andare dal medico. A me piacerebbe molto che il medico dello sport diventasse una vera figura, così come l'allenatore per l'atleta. E possibilmente stare fermi. Io dico sempre che varrebbe la pena che qualcuno, quando sta bene, simulasse l'infortunio. Se stando bene si sta fermi 15 giorni e non si riesce a star fermi perché si soffre l'inattività, ecco, bisogna pensare che un giorno, se fai una fesseria, rischi di star fermo per tutta la vita, cioè di non poter correre. Vedi? Come ti piacerebbe. Bravo Marco, grazie molto per bene. Essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a tutti voi. Grazie. Giorgio ci chiama da Milano. Sentiamo. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Sentiamo. Siamo pronti, Giorgio? Siamo sì, qui. Allora, sì, vi volevo dire, io da un anno, colto da raptus, pazzia forse, sì, presenile, ho cominciato ad andare a correre. Perfetto, ho sempre fatto abbastanza attività fisica, nel senso di camminare, bicicletta, queste cose le ho fatte sempre. Sì. Sempre a livello di passione, non agonistica. Sì. Ora, io ho cominciato a correre proprio un anno fa, e chiaramente misurando quello che dovevo fare, senza esagerare, andavo prima un quarto d'ora, poi 20 minuti, poi mezz'ora. Sì. Adesso, dopo un anno, a parte che adesso prima andavo tutti i giorni, adesso sì, vado... Sì, Giorgio, vado un po' di corsa prima dei mercati. Sintetizziamo. Perché sennò io non riesco poi a darle la linea dopo. Mi sì, dica? Allora, da un mese la parte interna del ginocchio destro, in basso, sotto l'articolazione, ogni tanto mi dà un po' di fastidio, sopportabile, non continuo. Sì, ero in macchina, ho sentito il programma. Ha fatto bene, Giorgio. Fatto benissimo. Credo che non sia nulla di rilevante, è chiaro che bisognerebbe vederla, però i problemi possono essere due: o una piccola sofferenza del menisco senza che si sia realmente rotto, oppure anche il corridore può avere quello che dicevamo prima, il ginocchio del saltatore, e quindi ci può essere una tendinopatia del rotuleo. Se è un fastidio, non ci pensi. E voi che tipo di ginocchio avete? Siete sportivi? Chiamateci. Sedentari? Ce n'è anche per voi. Siete fumatori? Razione doppia, ne parliamo tra poco. Le sigarette non fanno male solo al cuore e ai polmoni, ma perfino alle ginocchia. Infatti, secondo uno studio della dottoressa Flavia Cicuttini, della Monash University e del Dipartimento di Epidemiologia e Medicina Preventiva presso l'Alfred Hospital di Melbourne, in Australia, le bionde manderebbero in fumo le cartilagini del ginocchio. Gli esperti australiani hanno esaminato per 2 anni l'effetto delle sigarette su 270 individui di mezza età scelti a caso tra i partecipanti a un grande studio di popolazione. I risultati hanno evidenziato che i fumatori perdevano ogni anno una maggiore quantità di cartilagine rispetto a chi non aveva mai fumato, con un danno localizzato sulla parte interna della tibia, tanto più grave quanto più era il numero di pacchetti fumati e gli anni segnati da questa abitudine. Dottor Boffi, le ginocchia, anzi la cartilagine, va in fumo? Sì, interessante la novità di questo studio, che la ricerca è stata fatta su persone sane, no? Giovani, insomma, sportive. Ecco, già molto si sapeva, era stato pubblicato su altre fasce d'età, patologie più degli anziani, come l'artrosi e l'osteoporosi, no? Ad esempio è stato già dimostrato che le fumatrici in menopausa hanno una densità mediamente ossea ridotta rispetto alle loro coetanee non fumatrici, che sono quindi anche più soggette ai danni dell'osteoporosi e alle fratture. E così ha sentito professore D'Anchisa, e così la butta lì. Spero che lo senta anche mia moglie. Ecco, e così la butta lì. Mi spiace, però questo è già stato dimostrato ampiamente, e lo stesso per i danni artrosici, sì, degenerativi alle dita. Noi in pneumologi guardiamo sempre le dita per capire se uno fuma meno, e a parte l'odore, no, che si sente il tabacco, proprio la forma dei forti fumatori, si chiamano cosiddette dita ippocratiche delle mani, che sono a bacchetta di tamburo, sì, perché sono dovute a anni, a decenni di mancanza di ossigeno a livello dei capillari, delle articolazioni, delle falangette delle mani, no? Però ecco, interessante questo, che si parla di persone ancora molto attive in giovane età e che già hanno un prosciugamento dell'energia vitale, del sangue, dell'ossigenazione del midollo osseo, e quindi una conseguente anche depauperazione delle cartilagini, delle ginocchia, e tra l'altro, professor D'Anchisa, il fumo è un fattore di rischio anche per quanto riguarda gli interventi, e per, specialmente se parliamo di fratture, il rischio di non avere una buona consolidazione in pazienti operati e anche non operati è molto alto. Quindi il messaggio che diamo, si dovrebbe sempre smettere di fumare, dottor Boffi, dico bene? Sì, però gli inglesi li chiamano, gli anglosassoni, touchable moment, cioè c'è un momento tangibile in cui è ancora più importante. Uno di questi è prima degli interventi chirurgici. Assolutamente, ma anche quelli più semplici, anche gli impianti, sì, impianti dentali, certo, assolutamente. Perché l'osso non lavora, non riesce a lavorare bene. Ecco, quindi non mettiamo il bastone nelle ruote. Ma professor, dottor Boffi, su Repubblica, vaccino stile Pac-Man contro il fumo, un'iniezione per dire addio alla sigaretta. Testato dai ricercatori della Cornell, mangia la nicotina nel sangue. Mangia la nicotina, sì, l'ho letto. Di vaccini si parla già da molti anni, finora non hanno dimostrato ancora sufficiente efficacia né innocuità, per cui non ci sono ancora in commercio. Io diffido sempre i fumatori da avere esagerate aspettative, per quando arriveranno, se arriveranno i vaccini, viva Dio, molto probabilmente in pazienti selezionati che hanno bisogno un po' di questo shock anticorpale, diciamo così, potrà essere la soluzione. Però già adesso, ricordiamolo, ci sono un sacco di strategie, di terapie sia psicologiche che anche farmacologiche dimostrate efficacia, quindi non c'è bisogno di aspettare l'arrivo del vaccino per quando arriverà per dire basta alla sigaretta. Dottor Boffi, grazie per essere stato grazie con noi. Buona giornata. Buona giornata. Barbara da Monza, noi torneremo sul problema delle cartilagini. Molti ascoltatori mi chiedono se c'è un'alimentazione che in qualche modo aiuta la cartilagine, se ci sono degli integratori. Sentiamo Barbara da Monza che cosa vuole raccontarci. Buongiorno Barbara, benvenuta. Buongiorno. Vorrei fare una domanda al professor sono D'Anchisa. Qua. Eccolo. Sì, volevo dirle, io sono di Monza e so che lei lavora all'Istituto Ortopedico Galeano. Sì. Io sono da fine 2009 che ho molti problemi di sofferenza alla cartilagine. Ho fatto lì proprio nel suo istituto risonanze, TAC, anche l'ho ripetuto anche ieri. E dalle risonanze risulta proprio una sofferenza della cartilagine. A una che livello? Dov'è la sofferenza della cartilagine? In quale parte del ginocchio? Allora, sono una cosa bilaterale ed è proprio maggiore nel ginocchio destro. Sì. E dalle visite degli ortopedici mi hanno detto che c'è il segno della razza molto positivo. Quindi è un problema della rotula probabilmente. Proprio della rotula. Sì. E poi risulta che ho una gola poco profonda e... Come? Il legamento alare è leggermente spessito, sì, però allora, Barbara, io la ringrazio, possiamo essere perché sì, però voglio dire è una cosa molto interessante, molto tipico delle donne. La rotula scorre in una specie di gronda molto, molto precisa e nelle donne, in maniera più frequente rispetto agli uomini, la rotula non è perfettamente parallela a questa gronda e quindi a lungo andare questo può creare un'usura della cartilagine e quindi può creare dei dolori. Quindi è un problema di sofferenza della cartilagine della rotula che spesso viene risolto con una buona ginnastica, un buon rinforzo del quadricipite che tende a riposizionare meglio la rotula. e in altri casi possono anche essere interventi chirurgici, però è una patologia molto frequente. Dove la riabilitazione è molto importante. La prima fase è certamente riabilitazione. Esatto. Muscoli. Esatto, il quadricipite fondamentalmente. Che è sempre quello. Che è sempre quello, anche i flessori in altre situazioni, però quello lì è quello che vediamo anche, perché è lì davanti a noi. Abbiamo Luca da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno, io chiamavo perché ho 29 anni e a seguito di un brutto trauma sportivo negli ultimi 2 anni ho subito 3 interventi di artroscopia, il primo di pulizia del menisco, il secondo ricostruzione della LCA e il terzo mi è stata asportata una parte di menisco perché avevo un'interferenza. Ecco, Luca non si è fatto mancare nulla. Adesso come va? Adesso qual è il problema? Il problema è che attualmente l'ultimo intervento l'ho subito circa 20 giorni fa, quindi un po' presto, però avverto ancora una specie di spillo all'interno del ginocchio e non riesco a capire se è un decorso normale. Beh, è normale oppure... dopo 20 giorni da un intervento, anche in immagino che abbia fatto un'artroscopia. Sì. Diciamo che non si può dire assolutamente nulla, quindi può capitare, specialmente in un ginocchio che ha avuto più interventi, quindi sicuramente con una sofferenza cartilaginea, anche un recupero un po' più lento rispetto ad altre ginocchia. Quando dopo un intervento, quando si torna in gamba e si può iniziare a praticare un menisco, diciamo che nel giro di 20 giorni, un mese, se non ci sono problematiche particolari, si riprende a far tutto. La quotidianità anche molto prima, evidentemente. Sì. Nel giro di pochi giorni. Ricostruzione legamentosa, ecco, questo è un argomento interessante. Noi non dobbiamo confrontarci alle volte con alcuni calciatori che riprendono molto in fretta, perché è una categoria diversa. Noi dobbiamo far sì che il nostro legamento che viene ricostruito utilizzando dei tendini, quindi questi tendini devono diventare legamenti e poverini ci mettono un po' di tempo, quindi devono riabituarsi a un lavoro diverso, quindi io credo che ci vogliano come minimo 4-5 mesi, se si ha una buona muscolatura, perché la muscolatura protegge il ginocchio. Se non abbiamo muscolatura, affidiamo tutto ai legamenti e alla cartilagine e alla tenuta dell'articolazione. Non so se è chiaro. Sì, non è necessario per avere muscoli grandi e forti come quelli dei calciatori. No, questo che tra poi l'altro... è l'inverso, ci creiamo il problema inverso. Quindi il muscolo giusto. Il muscolo giusto. Il muscolo come giusto. La corsa giusta, come l'attività giusta. A proposito di muscoli, di gambe, di calciatori, le vediamo in questi giorni? Che sono storte. Se fate caso, quasi tutti i calciatori hanno le tibie varie, perché questo consente di correre meglio, di calciare meglio. Però valgono veramente un patrimonio. Andiamo a sentire. Se i divi del cinema si assicurano il viso, le gambe, il seno e il lato B, i calciatori scelgono di proteggere le loro gambe perché sono il pezzo più pregiato del loro lavoro. Il record appartiene al talento portoghese Cristiano Ronaldo, che ha assicurato le proprie gambe per 100 milioni. In questa speciale classifica anche David Beckham, con 70 milioni, e il 3 volte pallone d'oro Lionel Messi, con 50. Tra gli sportivi, però, c'è una vera e propria corsa per mettere al riparo le parti anatomiche decisive. Valentino Rossi si è assicurato i polsi per 12 milioni. Fernando Alonso i pollici, con cui guida la sua Ferrari, per 10. E il portiere spagnolo Iker Casillas le mani per oltre 7 milioni. Muscoli. Quel che ci vuole, professor D'Anchisi. Sì, non c'è una ricetta, ovviamente. Diciamo che l'attività fisica è fondamentale. Anche nei pazienti artrosici, quindi quelli che hanno già la cartilagine consumata, il movimento è fondamentale per ridurre la sintomatologia dolorosa. A proposito di cartilagine consumata, si può rigenerare la cartilagine? Allora, la cartilagine purtroppo è una brutta bestia, nel senso che di per sé, se il danno è significativo, non guarisce. Sì. Si stanno studiando progressivamente diverse tecniche chirurgiche per ripristinare la cartilagine, però dobbiamo fare molta attenzione, prima di tutto che non c'è ancora niente di certamente consolidato, sì, però ovviamente ci sono delle indicazioni in cui è giusto farlo, e l'altro elemento fondamentale è che non dobbiamo illuderci, oggi non c'è niente che può consentire ad una situazione artrosica di migliorare. Mi spiego meglio, il danno cartilagino, se io do una martellata sulla cartilagine, la cartilagine muore in quel punto, ma quello è un danno localizzato, non artrosico, cioè non si è consumata la cartilagine, sì, e su quello si può fare qualcosa. Sì. Sull'artrosi, io spesso vedo pazienti che vogliono una cerorestaminale, no, tutto quello che vogliono loro, per l'artrosi oggi come oggi non c'è nulla che possa far ripristinare una cartilagine artrosica. Altro elemento importante è capire perché si è usurata la cartilagine, perché se io metto la cartilagine più bella del mondo e non elimino la causa che ha procurato il danno cartilagino, si rovinerà anche quella. Certo. Quindi se uno ha le gambe storte, dico per dire, e la cartilagine si sta consumando, bisognerà addrizzare la gamba prima di pensare di fare qualcosa. Certo. Allora, e noi invece vogliamo cercare di lavorare sulla nostra muscolatura. La facciamo con la nostra amica Tite Togni, che è insegnante di yoga certificata Iyengar. Ciao! Ciao, namaskar. Senti, tra l'altro tu sei pronta per l'ultramaratona. È un ultra trail, è una ultra corsa in natura. Diciamo che sì, è una corsetta abbastanza lunga, sulle tre cime di Lavaredo. Pensi, professor. Piuttosto lunga cosa vuol dire? 120 chilometri. 120. Vabbè. No, no. Se Dio vorrà, ma parliamo di noi. Parliamo di noi, parliamo di chi come me non fa né la mezza, né l'ultra, né la maratonina, cioè noi anche il professor D'Anchise, no? Ecco. È tutto in proporzione. Allora, la nostra muscolatura, il professor D'Anchise ci ha detto, se il muscolo è troppo grosso, esempio calciatore, ma lì sono degli atleti, ma è tanto per darci un'idea, poi i tendini e i legamenti devono lavorare molto e quindi non va bene. Se il muscolo non c'è, allora facciamo lavorare anche sempre solo i tendini e i legamenti, e questi non ce la fanno. Insomma, loro hanno bisogno di essere supportati, e quello che li supporta, loro piace essere supportati dai muscoli, sono fatti così. Allora ci dai e non ce la fanno da soli. Allora quando noi dobbiamo dire sei proprio un tendine, anzi ti dico di più, un legamento. Tite, un esercizietto? Allora due, perché mi state parlando dei due problemi, delle due facce della stessa medaglia, no? Il potenziamento, perché senza il muscolo il ginocchio non fa nulla, è un'articolazione, i medici insegnano, subisce quello che succede intorno, sopra, sotto, dietro, davanti. Quindi se i muscoli sono deboli, la rotula cade, non scorre bene, si sposta, cosa facciamo? L'esercizio per potenziare i muscoli quadricipiti, che sono quelli che tengono appeso, sì, a posto la rotula. Consiglierei l'eroe numero due, che l'eroe numero due rimane impresso sia per sì, l'importanza e sia per, ed è molto semplice, gambe aperte, un metro, piedi paralleli, giro un piede ed è di 90 gradi, sì, scendo e mi siedo piegando il ginocchio, come mi siedo al centro tra le due gambe, piegando il ginocchio fino a che la tibia è perpendicolare al suolo e la coscia è parallela al suolo. E sto lì. E sto, respiro, perché è lì che sto portando ossigenazione al quadricipite della gamba piegata, che si potenzia, ma anche sto stirando e portando ossigeno come stiramento all'altra gamba dietro, certo, quella dispesa. L'esercizio che poi noi metteremo sulla pagina Facebook è il secondo. L'ho già messa, brava Tite! E il secondo, rapidamente, perché ho poi allora, anche Massimiliano. Invece è proprio il tema dei runners, dei calciatori, cioè di chi fa sport, i quadricipiti li ha fin troppo sviluppati, sì, facendo l'errore opposto, cioè sì, dimenticando l'equilibrio della muscolatura tutta delle cosce. E quindi è la tortura dei miei runners, dei miei yoga runners, ma loro lo sanno, lo fanno sempre, sedersi sui talloni, all'inizio con le dita dei piedi rivolte in sotto, quindi inginocchiati in sì, pratica, sedersi sui talloni con cosce e gambe allineate, quindi ginocchia unite e seduti sui talloni, e quando saremo più bravi faremo virasana, cioè la posizione sempre dell'eroe Ma seduto, che si chiama Virajana e che c'è sulla pagina di Facebook vostra. Quindi questa è una specie di tortura per i maratoneti, però no, non è. Lasciatevi torturare e poi andrete meglio. Tite. Respirateci sopra. Tite, ti abbraccio, grazie per essere con noi. Facci sapere di te, Massimiliano. Buongiorno. Chissà che cosa terribile l'eroe 1, l'eroe 2 già faticosissimo. Massimiliano da Torino, mi raccomando, io Roberto Scaltritti in regia la parte tecnica e lui mi taglia. Quindi rapidissimo il dottor Danchi, il professore ancora. Io volevo portare un attimo la mia esperienza. Io ho un passato da venga il problema. Qual è il problema? Io ho avuto dei problemi di mi hanno diagnosticato una condropatia rotulea. Sì. Portata dal ginocchio valgo, sì, di pochissimo fuori asse l'articolazione. Sì. Io l'ortopedico voleva intervenire e operare. Io ho avuto la fortuna di trovare un kinesiterapista che mi ha consigliato dei cicli di elettrostimolazione sul vasto mediale in modo da potenziare questo muscolo. Era quello che dicevo io prima, è fondamentale la riabilitazione. L'elettrostimolazione va molto bene, io non l'amo molto perché dico sempre che è un po' la ginnastica dei pigri. Quindi è meglio lavorare, serve l'elettrostimolazione quando la muscolatura è proprio scomparsa. Grazie al professor Danchise, a Roberto Scaltritti, regia la parte tecnica, a Miriam Lucchetti, a Laura Vanossi, a voi che siete intervenuti e ci avete seguito. Ci sentiamo lunedì. Buon weekend.